una chiesa alpina dove l'arrivo una campana. Nel vederla così lato pare in cielo e più lontana. Al suono parte vita un cuor nel dolce vetro mattutino. Alla chiesetta tutta in fior ritornerà il mio bell'alcì. Ode un suono ma non è più la campana della chiesetta. Silenzio della sera che pian pian suona la trombetta. Più piano come il dolce sospir tra breve non si sente più. Dal bruno fino pare d'udir la campanella sua laggiù. Rosellina che col gregge vai sui monti di buon mattino. E con ansie fede aspetti che ritorni il tuo bell'alpino. Se pur lontano il bruno alpino, a te lo tanto penserà, e un dì vedrai che a te vicino, felice ancora ritornerà. Ed un giorno assai più forte suona festa la campanella. E tornato il bruno alpino e Rosellina si fa più bella. E a bianche tuna come un fior che il sol di maggio sposterà. E la campana con amor per quelle notte suonerà, per quelle notte.